Marchisio, attenzione Marchisio, Marchisio, attenzione signor Marchisio, Marchisio. E beh, dormiamo. E chi è? Dammi tu sei. Aspetta un attimo. Ma che si accende tutto voce a trombetta? Ma che mai si accende così? Come sto uscendo? Fatta, ieri eri venuto bimpante e coso, chiaro e tutto quanto, e no che cazzo ti intendo tutto quanto. Boh? Prova. Boh, sta a tetto, io sono a casa, la mamma, Ieri ti sentivo più bene, oggi pari tutta trombetta. Ah, ne scaldo sta? Un po'. Però guarda adesso. No, ce l'hai ancora un po' a trombetta ce l'ha. Boh. Non lo so. Ma non hai educato nulla, no? No, niente, tu, nulla. Ma chi è? Nulla. Niente. Niente. E ce ne più belle rimane che oggi. No, aspetta, me ne sono andato via, non lo so. Ma manca con stazionarie, boh, guarda adesso. Lascialo così, lascialo. Ma sto uscendo male, aspetta. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. No, oh, sei sempre lo stesso, lascialo così, lascialo, già è comprensibile. Ma se mi hai detto che stavo innescando. Innescando no, è tipo trombetta, sta più uscendo poco fa. Adesso è appena più chiara, ma... No, lo abbasso a 3, guarda un po' se va meglio, No, lascialo così, lascialo. Già ti capisco lo stesso. Ehi, me sono rientrato prima a casa, io ho roba da fare, del computer. Uno è... gli ha fatto. Quasi. L'altro... sta facendo un altro. Poi un altro ancora. Però quello lo devo smontare, devo controllare la scheda madre. Insomma, già ci guarda che cosa. Ti interessa una scheda madre con scheda video dentro la busta e qualche altra cosa? Ti interessa, se no la butto via. Ma di fisso? Di fisso. Cosa c'è? Cosa c'è? La vetro? Cosa c'è attaccato? Ah boh, ce l'ho messo dentro la busta e tutto quanto. C'è la scheda video e altra cosa, non so se c'è la ventola. Ma se c'è, ce n'ho ventole. No, vabbè, questo ce ne siamo e te la regalo pure io. No, la scheda video è buona, funziona. Penso di sì, l'avevo messo tutto lì dentro, nella busta. Penso che funzioni. Ascolta, la scheda video è PCI? Beh, non lo so, c'ha soltanto l'uscita per il coso, per il monitor e basta, non c'ha altro. Ma devi vedere se ha 3 spacchi dove ci sono i contatti, 1 e 2. 3 spacchi c'ha. E chi si vece, Etto? Chi si vece? E allora dirà un po' di più, domani. Ma aspetta anche la scheda madre di quelle vecchie, capito? Di sicuro sì. Andava là. Ce lo butto domani, così me ne regalo la metà di birra. Non so se tu hai conosciuto, ma sicuramente sì. Presario Compaq. Presario Compaq 2100. Dove c'ha le due? C'ha sicuramente un giga di RAM e la disk da 60 giga. Adesso mi sto installando Windows 7, ma secondo me è una volta finito. Vabbè. Di ginkgo, è poco vecchio. Se rompi balle, va, veramente, quel ragazzo. Purtroppo è così. Se ve lo deve accontare, sarebbe giù un altro di Napa, accontare se fa comparassile. Ma noi non lo fa qualcuno di Napa, accontassile. Ti dai a dottor Bazzinampa? No, io sono fatta bene ai fratelli. Cos'è? Ho detto che io sono fate bene fratelli. Ah, andavi andare. Giulia, Mario, ho sentito, no? Giulia, Mari, dormito sei? Oh, allora sei ancora in campagna, devi lasci. Allora, questo malacchino un po' guarda, se ti svevo, se vuoi sempre gli osso. Tanto se lo porto giù, to innesco, perché c'ho stazionaria. Oh, vabbè. E così è. Aspetta, beh, c'è Bacchisio. Attenzione, Bacchisio! Ancora domenica se fate intendere. Che è avanti? Che è chiama avanti? Sentivo qualcuno basso basso. Boh, io manco ne intendo. Meno male che ho ancora tutti i radiali, che le cornacchie non lo hanno rotti. La matta di Nirguaria. Ehi, devi stare attento, ma come ne hanno nonnaggio io di radiali? Si attaccano a cosi. Nell'antenna del televisore che ce l'ho. Ma loro si mettono sopra, si dindolano, capito? Poi i radiali, lo sai, quelli in vetroresina si spaccano, ma si spaccano anche quelli d'alluminio, sono fratelli. E una volta dice da Gianni la cosa agli uccelli, una volta. Stavano la scossa quando modulavi. Fece di giro. A Crepitone noi gli... C'è di anni acciai sopra e quando le antenne si muovono non è che stanno sopra parecchio. Forse magari se gli dai un paio di cento di watt all'antenna, sì. Ma quelli sono troppo morbidi per loro. O stanno messi sulle antenne del primo, molto. Beh, se gli dà un chilo fatto l'antenna, magari, io penso che la scossa la prendono. E luce di suida da buio, delle visori. Ma no, come di cancareggi, la cancareggi è la curraccia. Vabbè, una buccia ci va zia. Una volta già lo saccavano. Prima erano altri tempi, dai. C'è anche là, qua al monte, qualcuno che pompava forte, ma forte. Ma qualcuno però era sempre controllato perché disturbava. Lo so, purtroppo, cioè, prima era analogico il segnale, il TV a digitale, io prima disturbavo un po' lo stesso, castrami medagliato 3 volte o 4 volte il campo, quindi un po'. Ho chiamato la scuola radio, sono venuto a controllarmi anche e mi hanno detto che ero a posto. E allora volevo sapere chi mi tagliava il capo. E io, vabbè, comunque sono ormai cose passate. E quelli sono anni passati. Anche a me, se per quello sono venuti tanti anni fa. Li ho chiamati io e mica mi hanno chiamati loro. Perché? Perché mi tagliavano il capo. E non mi sono più giunti. Io non l'avevo trovato, c'è Tornecco, c'erano in cucina al baracchino, no? Con le mie 300. E non mi hanno detto niente. No, è strano. E di solito devi avere sempre le cose omologate. No, non mi hanno detto niente. Andare. Andiamo. Ehi, vabbè, ormai sono tempi passati. Sì, ormai gli anni passano. Ti sono passati. Purtroppo siamo nella nuova generazione, va. Allora, questo alimentatore... Sai che il LED sta un po' lampeggiando. Se sta lampeggiando vuol dire che non sta dando la tensione giusta. Allora, facciamo un misuro con testa, vediamo un po' quanto mi dà. Cos'è che stai misurando? Un alimentatore di un portatile. Si attacca questo qua, schiaccia il tastino dell'accensione del portatile, lampeggia e non accende. Quindi ne ho dovuto mettere uno mio di quelli universali per accenderlo. Vedi che è bruciato. Infatti sono bruciato, devo vedere altri miliardi di voltaggio. Viene a 19, però strano. Da 19 ti dà. Ma allora vuol dire che non verrà a fare... No, 19 comunque la tensione. Non è ballerino. fare ballerino. Non lo so. Oh, vuol dire che no. Non ce la fa, o si cala, a scalda. Noto. Vuol dire no, vai a che cosa dentro che arriva a un certo punto e non ce la fa. Sicuramente mai quando lo attacchi al computer non ce la fa. Ve lo devo punire con un altro alimentatore. Ma bisogna 19, 19, perché da fa 12, 15, 16, 18, 19 e 20. Non accende con quello lì. No, lampeggiano i led del computer, ma non accendono parte. E invece con il mio adesso stanno installando il sistema operativo, quello che ho io, cioè tutti gli attacchi, no? Quasi tutti gli attacchi del computer, qualcuno me ne manca, perché sono tanti i PC, no? Mica tutti i PC sono uguali gli attacchi. Io uso questo qua, invece nel mio uso l'originale, io ho portatile lo stesso, uso quello su originale, non è dato di chi compara di dai Marocchini. Che PC è? HP. No, il mio è un Acer, invece questo qua è un compact presario dell'HP. Solo se non c'è il suo originale è proprio boh. Sono un bel fastidiosi, gioca, non riesce a ciappare. E poi costano parecchio questi alimentatori già. Ma lui basta che me ne procuri uno di qualsiasi computer, lo apro, metta quel filo e metto il suo filo, poi risolto, si incolla con l'altra che non si vede niente. Proprio così. Non funziona con l'alimentatore suo. E deve darci allora che è mezzo bruciato. Anche se te da 19 non ce la fa. Mi dà 19, però è ballerino. Cioè mi sa 19 la tensione, no? Però è ballerino. L'ago del tesser. E allora è mezzo andato. Non ce la fanno. Mezzo andato. Allora ti dico, già arrangia, gliela procura uno, te lo faccio il favore, glielo apro, gli cambio il filo, gli metto questo filo qua, e se no si arrangia, io il busto qua. Io mi lavo in un ingotto. E mi lavo in base di Gesù Cristo. Se il compareggia l'alimentatore, di Gozu, quelli universali. Infatti, se lo può pure comparare. Ci sono. Ma alla fine dove conviene, no, perché è vecchio il computer. Ah, se invece allora dili, arrivederci di lì. Sì, non è preso un tempo io. Per me questo qua è tempo perso. Anche se io ho molto altro, faccio anche altre cose che fa. Faccio questo gruppo e andiamo a vedere. Mi pure una roba vecchia di raggi. Adesso sto facendo un piccolo io di computer, ma che sono a testi. Aria bassa. Che è avanti? Avanti chi è? Oh, non è avanti, è indietro. Purtroppo avrà avanti chi tu. Adesso è basso. No, la qua già avevo l'incezione, ascolto Alghero, Porto Torres, non ho problemi, dai. Non ne arrivo in capo al mondo, però. Sì, no, non ce la fa arrivare da noi. Attore, tu vedi il tuo computer, fiammante, devo dire, no, uno, ma nuovo, se no che invece quel nonno. Purtroppo adesso non si ne acciappa dei gozi e non si accomparasse il nemico. No, io che ci da genere manco preso e sistemato, se avevo potuto andare un comodo. E devo venire a pazziro. No, non è quello su cui non è quella là, se non potrà stare a me. Ma sei meglio che hai cartucci. Ah, che sushi. E infatti. Poi del resto non me ne può fregare di meno. Oh. quindi cosa risponde? Se risponde bene, se risponde male. Guarda un po'. Aspetta per vedere se c'è entrato Bacchisio. Attenzione Bacchisio, sa che no. Se vuole entrare già ci arriva, voglia. Mi passa in alto. A te passa in alto, non penso. Da lì si passa più lui che io. Vabbè, ma non ci deve essere ancora. Magari ancora in campagna, intanto tra un po' io lo stesso, sono le 8:30, faccio qualcosa, poi faccio orario, riparo il computer, alle 9:30, massimo 10 smetto, e mi zigocco. Sì. È giusto anche cadere il computer, poi domani già ce l'è tempo a voglia. Prima il computer, quando sono usciti con XP andavano bene, perché era un sistema operativo più leggero. Adesso se vai a mettere un Windows 7 su un XP, manca luce, guarda. Quindi se è un Vista tanto quanto, ma un XP... Infatti deve essere un po' potente per poter andare. Sentite? Ah? Sentite questo qua, è FM sicuramente. È in FM. Vabbè. Quindi un bello, c'è l'FM. Frequenza modulata. Ma già non me ne date fastidio. C'ho il tastino io di cose e poco lo sento. Ma io basta che gira appena lo squarcio, ancora non lo sento più. Sì, vabbè. Io no. Tu c'hai un tastino per attenuare? Eia, sul tastino e li sento poco e nulla. Ho capito. Che apparecchio stai usando, dottor? Il presidente. Ho capito. Il presidente. Va bene, dai. Fuglia. Questo è un iPhone. Questo ce l'ho qualche anno, eh. E va bene. Però ho notato che se non lo uso per un po' di tempo, lo smetto un po', si inceppa, si inchioda. Quando faccio un po' acceso, faccio un po' di passaggi, se riprende a funzionare bene. Cioè non mi dai il picco di modulazione, quando vado a fischiare, rimane fermo. Adesso già sta funzionando. L'ho visto. Ogni tanto è sempre nel degoso. C'è sul gamino. Ma tu quanti anni ci sei al baracchino? Tanti anni, perché io non ti avevo mai sentito? Forse ti eri un po' ritirato, la frequenza. Sono entrato l'anno scorso, mi barriero 20 anni senza entrarti. Ecco. Ma anche io qualche anno l'ho lasciato lo stesso. Però c'ho ancora la come si chiama? La concessione, la prima concessione. E io ci sono da 93-92, entravo così di nascosto dalla baracchina di mio fratello, poi mi sono messo tutto in regola, ho fatto tutti i documenti, sì. E niente, ho fatto, cioè, quando mi sono messo in regola poi mi rompono le scatole lo stesso perché è disturbato. Se non mi sbaglio è dal 78-79 che avevo iniziato a modulare. Beh, quelli che ho conosciuto io, più vecchi, tipo Torre della Verde, poi vabbè, gli altri, ne ho conosciuto tanti, adesso non mi ricordo nominativi, poi vabbè, anche la buona mai di Mario Mao, vabbè, Giulio lo stesso mi conosce tanti anni, e niente, comunque vabbè, ci sono da 91-92, E non mi hai mai conosciuto. C'è Giusarraddo nel 2000 penso, chiuso. Non mi ricordo, dove che canale stavi? Io signor Bacchi, ziomi. Buonasera, che sei così basso, signor Bacchi. Buonasera. Buonasera, Bacchisio. Ciao, Luca, buona serata. Me ne ascolti, sì. Ehi, abbastanza bene. No, perché tu mi stava dicendo che stavo uscendo male prima, tipo ronzio, boh. So che c'è ronzio nelle orecchie. Stai uscendo bello pulito. E allora è tu che c'è un anch'io della casa mutua, vero tu, avanti. Sì, a casa mutua io, vi lascio. Che a te dovrebbe dar conto invece. Ma che cosa? Non è il baracchino degli auto che gli è confezione delle patatine, no? Io? No. No, gli è confezione delle patatine, sta tranquillo. Tu che ha comprato le patatine e ha trovato il baracchino. Ma non stai usando il nuovo, no? E il vecchio sto usando. E qual è? Quell'Intec no? Quell'Intec là, io ho fatto un lavoro. Ho pensato, sai cosa? Ho pensato, adesso sto provando. I poli che ci sono dove inserisce il micro siano abbastanza stretti, dunque ci giocavano. Quando tu infilavi il micro giocava dentro, capito? Oh! Visto che stai uscendo un po' a coso, stai uscendo, ma adesso è comprensibile. No, ma lo faccia di intolleranza. Sì, appena a coso, a trombetta, non è chiara la voce. Guarda, adesso sei più chiara. Insomma, migliorato appena. Guarda adesso, guarda ancora che ho dato un altro confetto. Ulla sarò così, ah, stiamo con Gucci si comprende più bene. No, ma basta, è arrivato tutto ormai di a manetta. Ehi, lasciarlo così, almeno tu si capisce più bene. Luca, tu non mi capisci? Diciamo che sì, è abbastanza forte, però è un po' un asino alla radio. Ah, aspetta adesso, cambiamo materiale a vedere. Comunque ci siamo quasi, dai, come ti già ce l'hai installato il sistema? L'hai installato là, allora si appuccia. Vabbè, poi bisogna scaricare tutti i driver, gli aggiornamenti. Ma su così si fa gli aggiornamenti, si inceppa, non da più. E basta punire il coso di non aggiornarlo. Quasi che riblocco. Tanto che questo computer gli serve solo per guardare DVD. Ci verrà Bazzi, eh? Sì, a guarda DVD, sì, ho voglia. Ma si attaccava molto esterno, per vederlo meglio. Già ce la fa. Allora, vediamo se si trovano i driver della Wi-Fi. E vabbè, poi davanti il virus li metto. Tanto cosa... Si piglia il virus, detto che... Ce l'ho fatta da fare. Cosa abbiamo più, ci avevo computer. Che cosa? Guarda adesso Luca non mi ascolti. È meglio, più bassa è molto più chiara. Confermi Tore. E faccio. Ed è così, adesso è molto più chiara. Cosa si usa nel nuovo? Sì, adesso sto usando il nuovo. Allora gli dovresti mettere il preamplificato per vedere se va. Bisogna adattarlo, bisogna che li faccia i pulli, perché non corrisponde un micro con l'altro. Ma convinto che il coso, l'MP4 dovrebbe andare con lo spinotto suo. Sì, ma non è il coso, è diverso il collegamento. Entra e fa l'importante. Sì, ma che dovrebbe... Io quando ho collegato al coso là va benissimo nel nuovo. Ho provato nel nuovo, niente da fare. L'hai compreso, Bacchi? No, in due, un parlaccio per volta. Dimmi, ripeti. Ho detto che io, questo qua, l'MPU5 che ho io, l'ho messo nel nuovo e funzionava benissimo. Io ci ho messo l'MPU4 e va importante quello che uso nel 34 modo. Omologato. No, c'è diverso attacco, c'ha. L'ho detto, diverso, diversa famiglia. Infatti. attacchi verso la famiglia, sì. No, bisogna fare gli attacchi, bisogna farli. Usare con uno spettone dovresti usare, come ho fatto io per il presidente. A fare, hai capito. Fare lo spettone per collegare, sì. Lo stavo facendo una volta. Dove l'ho messo? Devo cercarlo, un spettone del genere ce l'avevo. Bisogna fargli, devi fare un piccolo spezzone per poterli fare, da attaccarlo a quello lì, per non stare a smontare i fili e tutto quanto. Adesso mi stavo arrabbattando con quell'altro microfono che mi ha dato adesso. Non ci va. Su multimodem va benissimo, su quest'Intec non lo accetta. Trombetta. Certo. Allora non è buono a quello lì. E allora avevo il suo originale, ci vuole. Sì, ci vuole il suo originale. Sì, sì, che taglio di tu io, con la targhetta rossa. Quelli lì sono già pronti di spinotto pure. Ma che c'ho, è quello che hai tu, non c'è la targhetta rossa al microfono. Ma chi, no, ti ho sentito, sei lontano dal microfono. Ha detto, il tuo, la scritta non è in rosso lo stesso il micro. Da nuovo, Bacchi? Sì, c'è la targhetta rossa. Appunto per quello, sono tutti uguali. No, aspetta, quello che ti sto dicendo io rimane come quello, il tipo vecchio dell'Intec. Però c'è il coso rosso, così rimane. Ho capito, va benissimo allora. E allora uno di questi giorni lo guardo e me lo ordini. Andare, siamo così. Perché ne ho visto tre, ne ho visto. E anche l'altra sera stavo sfattolando, ce ne sono a tracuvarazzo. Adesso poco fa sto parlando con mio cugino, ma dice, se vuoi te lo mando io uno, altro mi costa più il viaggio che il microfono, lo sapete lì. Cos'è? Mi costa più di viaggio che cosa? Ma del microfono che ci stava mandando. Un preamplificato. Ah, quelli preamplificati. No, ma da lui dovrebbe costare 5,90 euro, dovrebbe costare. Ma se vai alle poste ci voglio 15 euro. Alle poste 15 euro, certo. Sì, te lo sto dicendo perché ho spedito io una radio al mio cugino l'altra volta, c'era un paio di mesi fa, 15 euro e spicciolini. E allora vuol dire che pigiava? Vuol dire che pregiava, ma cosa ti manda uno di quelli da tavolo? Non lo so, guarda, se vuoi ti mando un microfono più amplificato, perché stiamo parlando dei difetti, no? Metti uno di quelli e sei a posto. Però no, non ho detto, mandalo, no, la lascia perdere, l'ho detto, già mai giusto io. Ehi, se li gambe delle goju. Di spedizione non conviene. No, se me la manda per via posta, sono 15 euro spicciolini, esce un altro microfono. Infatti, chiedo cosa, 12,90 euro più 5,90 euro di spedizione. E sono 15 euro là. 15 euro, come dire. Beh, Luca l'abbiamo lasciato in bianco, allora che maniera passa asciutta in bianco, avanti Luca. No, mi ha finito il computer, adesso do un po', ci devo stare sopra un po', lo devo sistemare, Bacchi. Adesso sono qua in ascolto, poi nel caso che chiudete già vi saluto. Ok Luca, benissimo, vedi un po' di mettere a posto il tono, avanti il tono, riprenditela tutto a tu. Luca, se ti mendi il computer, se ti mendi. Io sei... andiamo. Un casotto la vita. Giulia. Cazzo, bubù. Se andiamo bene, andiamo. Vabbè. Ah, ma Marcoli va giù, la revisione a Rungarello va giù. Dove la fai tu? Ah, coso, la autorizzazione devo fare. Giù a Canica, ho capito. E allora, già è vicino. Ma devi portare anche il gommone, tu, non solo il carrello. Solo il carrello devo portare, solo il carrello. Perché c'è il numero del telaio e sopra e non può entrare a vedirlo. Quindi deve essere libero. Ah, e se non si entra si rompe le gomme. Hai capito? Se trovi qualcuno di quei tubi già fai veloce. Ah, Santino Bina è in pensione, non te ne fa più. No, c'è una signora che li fa, c'è una signora simpatica, infatti anche quando ho collaudato il gancio c'era una signora, ed è sempre quella. C'è quella lì e già fa in fretta. Vabbè, se c'è quella signora che ha tanto di quella pazienza da fare veloce. Ma che vi sono stessi stracchi baratti? No, lì c'è già simpatica Buru, è velocissima a prendere il gozi. Infatti hanno aggiovato, che avevo dato il gancio, fatto veloce, mi ha fatto gavare lo gozo. Liberarono il numero del telaio nella macchina e mi ha giocato in presa e me l'ha fatto, me l'ha baidato subito. Poi mi sono evitato un'oretta e mi ha mandato via subito. Allora va bene, allora va bene, tu sei così veloce, la signora ti manda via subito. C'era la fila, dovresti andare presto così. Sì, devo andare presto per forza. Tanto che deve controllare il numero del telaio, le luci e il freno, basta. Devi mettere in moto, il coso te lo solleva lì, il freno a mano te lo solleva lì e ti fa trainare il carrello con le ruote frenate. Ah, se frena, hai capito? Vabbè, se funziona. Sì, ma l'ho messo a posto io. Entro in settimana me l'ho messo a posto tutto quanto, proprio baffrinato. Se non frena ti dice si regoli i freni e ti fa provare, torna. 10 minuti regolo i freni e tira ancora e vedrai che da buio già frena. Cosa dice? Ritorni alla prossima settimana? No, no, te lo fa fare lì, te lo fa fare, 10 minuti e te lo fa fare. E allora dove? Allora, benissimo. È così gentile, te lo fa. Se no, ripeti la giornata. Luca! Ehi, qua sono, qua, mi sto provando a vedere cosa dice, ma è troppo vecchio, Divertiti. Andiamo bene. Vero Macchi? È vecchio, in pensione mettilo Luca, sei vecchio. I vecchi vanno in pensione. Dove andiamo? Bobo. Oh, io gatta, bobo. E oggi cos'è concluso, Macchi? Olive, to, olive oggi. Olive? Ah, ce ne sono olive da confetto. Poi, qualcuno tira la palla. Aspetta. Nel movimento. Anche i vent'anni io sono andato anche da Duilio a Piglianni. Ci suppongo che va via venivano impiegati subito. Ma ci arrivano perché ho visto Duilio, arrivano da Gonos Fanatica, che stanno portando. Me l'ha detto. Ah, oh, c'è Gonos Fanatica è più da coso, dalla base di Macomerfurum a di. Io sono andato alle cassette vuote l'altro giorno. E c'è scritto olive di Gonno. Da due parti dice che gliele stanno portando. Sì, è da cogli tutto, dunque basta che si arriva e dove è tutto. Oh, chi si bongare due giubizio che hanno i vedi vecchi, Già per la bella, la giubizio della salina è bella. Perché andare domani a Manzano magari per vedere. È più probabile che ci faccia qualche cosa. Perché l'uni e dunque clienti hanno ancora la bevita a comparare. Infatti vado presto, vado. e guardo se riesco a trovarlo. Ma ne va basta un po' per i barattoli e basta. Molto bobo. Sono passato nella via a Marchini, nella via Umberto. A Cagno non venne una che una non venne. Che ci ha mai dato due? Mi è durata sino a cosa, un pochettino ce li ho buttate, si sono fatti modi modi. Beh, secondo quanto tempo la lasci diventa molta. Ma se te lo lasciavi con l'acqua salata, non salata per la vita salita, leggermente salata, durano, anno con anno. Vabbè. Fermo così, vabbè Bacchino, a me mi sociamelli. Ci sentiamo domani magari, se tutto coincide, va bene. Ti auguravo una notte, Buru. Ok, ci sentiamo Bacchi, ciao Luca, alle prossime. Ciao Bacchi, dai, ciao Tore, buonanotte, buona cena, alla prossima, dai. Io continuo qua. A domani se Dio vuole, ciao, buonanotte. A domani. Ciao Luca, buona serata, buon continuo di riparazione del computer, ci sentiamo alle prossime. Buonasera a tutti anche agli ascoltoni. Bacchisia, QRT. Ci siamo sovramodulati, ciao Bacchisia, ciao Ottore, buonanotte, a domani, ciao, buonanotte. Ciao Luca, ciao, grazie.